Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Quanto fa la borsa in questo momento? 0,00. Poche volte lo vediamo, nel senso che è chiaramente invariata. Peggio decisamente fa Parigi, meno 1,16, Francoforte meno 0,70, Londra meno 0,60%, ancora l'America meno 0,25% in questo momento, euro vicino a quota 1,28, 1,29, 1. È appena arrivata la notizia che vi sono stati, la leggo assieme a voi perché l'hanno appena battute le agenzie, tafferugli tra manifestanti e polizia davanti al Parlamento cipriota. E anche oggi torneremo a raccontare da un punto di vista cipriota soprattutto, e quindi con l'inviato del Sole 24 Ore, come stia vivendo Cipro una situazione per alcuni versi surreale. Banche chiuse all'improvviso fino a martedì. Tutti campioni di retromarcia in questo momento in Europa, campioni di triplo, quadruplo salto mortale, poi vi leggerò alcune dichiarazioni, e, perché insomma, tranne questo singolare personaggio che è Jeroen Dijsselbloem, olandese dovrebbe essere, che dopo aver difeso il prelievo forzoso, adesso si accorge che ci propone senza dubbio un rischio sistemico e purtroppo l'agitazione degli ultimi giorni lo dimostra, ma va? Cioè andare a un prelievo forzoso sui conti correnti, anche quelli sotto i 100.000 euro, deciso così all'improvviso, dando il segnale che questa potrebbe essere una linea da seguire anche se altri paesi andassero in difficoltà, vedi il Portogallo, vedi la Spagna, vedi l'Italia, Dijsselbloem si rende conto che ha un rischio, pone un rischio sistemico. E pensarci prima, no? No, lo dico perché uno come presidente dell'Eurogruppo dovrebbe anche pensare esattamente alla sua situazione. È olandese, è vero, ma sappiamo che forse confina troppo con la Germania per alcuni versi in senso metaforico. Piano fallito, continua a dire, non so se questo piano di salvataggio sia fallito per sempre. Veda un po' lei, non c'è un voto in Parlamento, le banche sono chiuse fino a martedì, la Russia è furibonda, la Francia ha detto che è stato un errore, il New York Times dice che è stato un errore clamoroso. Becchiamo lezioni e schiaffi anche da Medvedev, il premier russo, che ha detto su questa vicenda sono stati commessi tutti gli errori possibili, ma Dijsselbloem dice non so se questo piano di salvataggio sia fallito per sempre, non vedo molte alternative se non ridiscutere la struttura della tassa, ma va? E poi dice pronti comunque a discutere una nuova proposta. Insomma, no? E bisogna garantire i piccoli depositi. Ma dov'era il presidente dell'Eurogruppo quando lo stesso Eurogruppo ha deciso mercoledì e giovedì scorso di obbligare Cipro a fare questo prelievo forzoso? No, chiedo, magari era in bagno, lo dico con massimo rispetto, non si è accorto della decisione che hanno preso, perché adesso sono tutti bravi a dire dobbiamo garantire i piccoli depositi. E vabbè. E questa è una cosa. Invece la buona notizia di oggi c'è, ed è molto importante, ed è il fatto che il governo, ieri abbiamo avuto la direttrice generale di Confindustria e la settimana scorsa Tajani sui crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, almeno 70 miliardi. Ebbene, il governo oggi ha deciso di sbloccare nella seconda metà del 2013 20 miliardi per pagare i debiti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e poi altri 20 miliardi nel 2014. Speriamo, perché per ora nei 4 decreti precedenti di questi 70 miliardi se ne sono sbloccati solo 3 milioni e quindi diciamo il nulla, un po' d'aria nello spazio per essere proprio corretti. E anche di questo ne parleremo con perché parleremo anche delle sofferenze bancarie con l'amministratore delegato del gruppo BNL. Continua infatti il nostro ciclo di interviste a manager, amministratori delegati sia della finanza che dell'economia. Parleremo, dicevo, di Cipro e di questa buona notizia. Subito però le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Dicevamo della borsa di Milano che è messa meglio di altre borse europee, in effetti UbiBank guadagna il 2,90%, la Popolare Emilia Romagna il 2,60%, Finmeccanica l'1,90%, A2A l'1,80% come la Popolare di Milano, il Banco Popolare più 1,50%, l'Automatica più 1,20% come Intesa San Paolo. Fronte opposto, Mediolanum meno 3,60, ST Microelectronics meno 3, Parmalat meno 2,80, Azimut meno 2,5, Ferragamo meno 2,20, Fiat meno 1,80, Tods meno 1,60, Telecom meno 1,5 come Tenaris, Mediaset meno 1,40 come Atlantia, infine Ansaldo perde l'1%. Oro e petrolio, o petroro, tutti e due stabili, oro a 1.608 dollari in Asia, petrolio a 92,96 dollari. A partire dal 2014, qui veniamo all'Europa, i bonus per i manager delle banche potranno arrivare al massimo al doppio dello stipendio base. Questo è l'accordo raggiunto nella notte tra il Parlamento e il Consiglio europeo, secondo quanto hanno riferito varie fonti parlamentari. E siccome è un tema che a noi sta molto a cuore, un bel applauso a questa decisione, perché l'abbiamo detto più volte, nel 1970 le prime 100 società in America avevano il top manager, il numero uno guadagnava 34 volte la media del dipendente, per cui se il dipendente guadagnava, poniamo, $1,000, loro guadagnavano al massimo 70.000 dollari, al 35.000 dollari al mese. Mentre nel 2007, prima dello scoppio della crisi, il rapporto tra quanto guadagna il dipendente medio e il top manager era passato a 1 a 270. Per cui se il dipendente guadagna $1,000 o €1,000, il top manager in media ne guadagna 270.000. Allora, ripeto, o erano sciocchi e stupidi i manager degli anni 70 quando è 60, quando si costruì il boom economico, oppure sono un po' troppo pagati i manager di adesso, delle banche poi. Bene il collocamento spagnolo, 4 miliardi e mezzo di euro di bonus, che sono i bot spagnoli, con un leggero calo degli interessi. Invece in Germania si è registrato un inatteso calo dell'attività manifatturiera, dell'attività industriale, della produzione. L'indice PMA, infatti, è sceso a 48 punti. Cioè è tornato sotto quota 50, che fa la differenza tra crescita economica e recessione. Anche il settore dei servizi ha frenato molto in Germania. Ogni tanto però i ruoli si invertono, siamo noi a invadere la Germania, lo dico in senso buono, perché c'è una cordata italiana che ha fatto un'offerta per comprare una delle principali catene di abbigliamento in Germania. Magari alcuni qui non la conoscono, si chiama Adler Modemarkt, e il fondo italiano è quello Equinox, quindi Salvatore Mancuso, e poi GSC Holding, che fa capo a Gaetano e Cosimo Carbonelli d'Angelo, e Stellman Holding, che è il gruppo della parte fashion del gruppo per prodotti per la casa guidato dall'italiano Michele Puller. Hanno acquistato il 49,96% di Adler Modemarkt e si preparano a lanciare un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto sulla società, che è quotata a Francoforte. L'offerta è 5,75 euro, e la capitalizzazione, l'obiettivo non è elevare il titolo dalla borsa, comunque il titolo ha una capitalizzazione di borsa che è di circa 120 milioni di euro. Barisoni quando parte per Cipro? Perché lei proprio ogni giorno che io inizio il programma deve scrivermi. Vabbè, appena c'è bel tempo, posso dire così? No, è un ascoltatore che mi ama particolarmente, sai dove? Eros e Thanatos, amore, odio. Andiamo avanti, a proposito di Cipro, la borsa di Cipro, di Nicosia, resta chiusa anche oggi e domani, quindi praticamente o riaprirà forse lunedì o se no andrà ad allinearsi con l'apertura delle banche che è prevista per martedì. La Banca Centrale Europea ha garantito che c'è liquidità sufficiente per Cipro fino a lunedì. Il governo a questo punto esclude il prelievo forzoso sui depositi bancari. Lo ha riferito a metà giornata alla televisione Sigma un portavoce del governo, mentre i leader dei partiti ciprioti hanno deciso di creare un fondo di solidarietà per impegnare i beni dello Stato come base per un prestito di emergenza, cioè darli come garanzia per il prestito. Comunque è escluso per oggi il voto al Parlamento cipriota sul piano B. Potrebbe esserci una fusione tra le due maggiori banche. Oggi sono aumentate le code davanti agli sportelli del Bancomat della Laiki Bank, che sarebbe la banca popolare di Cipro, che è la seconda più grande a Cipro, dopo che si è diffusa la voce appunto di una fusione con la prima banca, che è la Bank of Cyprus. La fusione tra queste due banche sarebbe una delle condizioni che Nicosia dovrebbe esaudire entro lunedì, e condizioni poste dalla Banca Centrale Europea per non bloccare gli aiuti, la liquidità a Cipro. Ma dicevo, torneremo su Cipro. Adesso invece vorrei andare tra poco alla buona notizia di oggi, che riguarda il governo, che ha promesso che sbloccherà 20 miliardi da metà del 2013 e poi altri 20 nel 2014 per i debiti che vanta la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Devo però tornare sulle spese diciamo, della pubblica amministrazione in generale, perché è un tema che non abbandoneremo mai, così come chiediamo alla Germania di essere meno miope e di pensare anche alla crescita, Germania, Olanda, Finlandia, Svezia. Allo stesso tempo facciamo autocritica e i compiti a casa, e quindi continuiamo a raccontare anche come sprecano i soldi i nostri enti locali. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi invece la pagina di Focus Economia su Facebook. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, ci siamo visti per fare un po' un programma su come tagliare il superfluo, e dunque abbiamo cominciato da noi stessi, abbiamo quindi voluto iniziare noi, cioè facendo un gesto significativo, a cominciare dalla nostra retribuzione. Quindi abbiamo deciso congiuntamente di tagliarci il 30%, almeno il 30% del nostro stipendio. Prego. Di rinunciare anche alle nostre abitazioni e di metterle a disposizione delle attività istituzionali. Intanto noi andiamo per una più alta produttività, raddoppiando le ore di lavoro, che negli ultimi tempi erano 48 a 96, cioè significa lavorare mediamente dal lunedì al venerdì, non mi pare poi granché. Si potrebbe anche fare di più, e poi cercare di dimezzare i costi o comunque diminuirli, e sotto questo profilo ci siamo subito trovati d'accordo. E la prima cosa abbiamo fatto per quanto riguarda noi, adesso noi proporremo tutta una serie di tagli all'ufficio di presidenza quando sarà costituito, e io sono sicuro che queste situazioni saranno assolutamente valutate favorevolmente. Un'altra cosa che vorremmo proporre, per esempio, è quella della giustificazione delle spese, perché abbiamo scoperto che molte spese si pagano in maniera forfettaria. Da che mondo è mondo, io sono sempre stato abituato a spendere in relazione alla funzione che esercito e a piedi lista giustificare le mie spese. E quindi penso che già questo produrrà un risparmio che andrà dal 30 al 50%. Oh, questi gli interventi dei neo presidenti della Camera Laura Boldrini e del Senato Pietro Grasso, molto applauditi. Taglio dello stipendio del 30%, ne abbiamo parlato anche ieri. Spese sforfettarie, un risparmio del 30-50%. Tutto bene, peccato che. Allora, qualcuno parli, visto che sono neo presidenti. Allora, Grasso, che è neo presidente del Senato, parli con la senatrice del PDL Paola Pellino, che ha comprato 11.000 euro di abiti firmati in una boutique, ma non li ha mai pagati. Forfettare o non forfettare, qua bisogna pagarla la roba. Il titolare del negozio By Gabrielli di Pescara raccontano che se li fece consegnare in albergo, assicurando che poi sarebbe passata per il saldo. Da 3 anni rincorrono la Pellino per farsi pagare. Solleciti telefonici, lettere d'avvocato, causa in tribunale. C'è una sentenza in primo grado che la condanna. E voglio dire, è una senatrice eletta appunto in Abruzzo, e voglio dire, potrà trovare i soldi, cioè, o gli abiti non li prendi oppure li devi pagare. Funziona un po' così nella vita. Io mi rendo conto che è una regola un po' strana, ma funziona un po' così. Quando uno compra qualcosa la deve pagare. Ma poi la cosa che imbarazza anche il gruppo della famiglia Pellino, che è un gruppo che l'azienda di confetti Pellino di Sulmona, noto di tutto il mondo, non so, li paghi in confetti, se vuoi, gli dia 11.000 euro di confetti, magari ti dai nel negozio By Gabrielli di Pescara, hanno dei figli che si sposano, trovate un modo per pagare sto negozio. Nel frattempo io vorrei dare anche degli esempi all'estero. Pensate che il ministro del tesoro americano Jacob Lew è andato in Cina, a Pechino, per lavoro, ha portato a pranzo 3 persone. Adesso io vi chiedo, perché vi dirò alla fine, sapete quanto ha speso il ministro al tesoro, cioè il Tremonti, il Grilli della situazione, americano, in visita ufficiale a Pechino per portare a pranzo 3 persone? Quello che si avvicina, basta che non abbia già detto la notizia, vince un applauso. La notizia va nel finale. Nel frattempo veniamo a sapere che la Regione Sicilia nella gestione precedente, io non ce la faccio a leggerla tutta questa notizia, ne ho troppe perché è incredibile. Mentre a Belluno è in crisi anche il libro per i ciechi, cioè senza fondo il centro del libro parlato potrebbe chiudere perché gli hanno tagliato i finanziamenti negli ultimi 12 mesi e offre un servizio importante. Noi siamo molto vicini ai ciechi, anche perché, come è immaginabile, ascoltano molto la radio ed è un mezzo per loro fondamentale, e li salutiamo tutti. Abbiamo avuto dei bellissimi programmi e anche iniziative con l'Unione Italiana Ciechi. Detto questo, il centro offre i servizi a oltre 1300 ciechi con difficoltà o persone con difficoltà alla vista, con dislessia o altre malattie invalidanti, e biblioteche, e trasferisce, cosa fa? In una lettura registrata, oltre 15.000 tra libri, spartiti musicali in braille e periodici. Ci sono 400 donatori di voce volontari, un centinaio, e 12 dipendenti. Il Ministero dei Beni Culturali ha tagliato tutto, nel senso che dovranno licenziare, dice il presidente Flavio De Vetag, 2 dipendenti, ridurre le ore, lo stipendio tagliato del 20% agli altri 10. Il Ministero ha tagliato del 50% i finanziamenti. C'è 140.000 euro in meno su un bilancio di circa 500.000 euro, ma il 50% in meno dei finanziamenti pubblici. Ora io dico, uno Stato che taglia un'attività così importante per i ciechi, per quanto abbia l'uno, perché deve risparmiare 140.000 euro, e poi non riesce a gestire altre cose. Per esempio, adesso la Regione Sicilia con Crocetta, abbiamo visto che iniziative importanti vengono prese. Ma insomma, Angelo Pizzuto, il Ricucci palermitano coinvolto in uno scandalo immobiliare a Miami, ha preso come incarico last minute di presidente dell'ente parco delle Madonie. Io le Madonie, no, le Madonie sono quelle che tiro, le Madonie sono quelle del parco, le Madonie. 38.833 euro ad agosto 2012, l'ultima mossa del governatore Lombardo, questa abitudine tutta italiana che quando uno se ne sta per andare mette a posto le ultime caselle. Pizzuto comunque è in cima alla lista di 1.100 incarichi che l'ex governo Lombardo ha attribuito nel 2012, molti del 1 gennaio, quando ormai se ne stava andando. No, praticamente c'è Vito Spatafora che prende la parcella di 1 euro, complimenti, ma in compenso Salvatore Bruno, in quanto cabina di regia, prende 60.000 euro in tutto, un esercito di consulenti, molti super burocrati, Vincenzo Falgares, dirigente generale delle infrastrutture, con un compenso aggiuntivo di 5.000 euro come presidente della commissione lavori pubblici, ma anche nominati in ruoli di punta in eventi a volte inutili o liquidati, come il Ciapi. Il Ciapi è che in Sicilia, perché in Lombardia vuol dire un'altra cosa. Il presidente Francesco Riggio ha percepito 22.743 euro. Ha anche due subcommissari, Gioacchino Pontillo, 3.400 euro di indennità, e Antonio Emola, e andiamo avanti così. Ci sono anche 5 magistrati della Corte dei Conti come consulenti, nel doppio ruolo di controllo dei controllati. Ma come fa un magistrato della Corte dei Conti a essere consulente se poi deve controllare come spendono i soldi le regioni? È un mistero. So che il presidente ce l'ha con me, mi è giunta notizia che il presidente Giampolino ce l'ha con me, non so bene perché, ma ce l'ha anche lui con me. E via così. Allora io dico, ma è possibile aver speso tutti queste centinaia di migliaia di euro per la Sicilia per enti, non posso leggere tutto, per enti spesso inutili, e tagliare 140.000 euro per un'attività di volontariato che serve ai ciechi, anche se è in provincia di Belluno, ma la dice lunga su uno Stato che non sa controllare come escono i suoi soldi. Allora, per la decisione sui ciechi di Belluno e per le consulenze, le mille consulenze decise quasi tutte nell'ultimo anno da Lombardo, un bel quinto potere. E poi parliamo invece anche della regione Piemonte, perché lì siamo a una crisi del governo regionale. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Prima però la risposta. Quanto ha speso il ministro al tesoro americano per portare a pranzo tre persone in Cina in un ristorante dove ha mangiato gli jiazoi, che sono i ravioli bolliti, sostanzialmente? Ha speso 109 yuan. Volete sapere quant'è per tre persone? 13 euro. 13 euro, 17 dollari e mezzo. Tant'è che hanno scritto anche in Cina: bravo mister Liu che dà lezioni di sobrietà ai nostri celesti funzionari, ma venga in Italia, facciamo fare un bel corso su come si ai consiglieri di regione, di provincia, dei comuni e via così, e poi ai noti senatori e deputati, come si fa a spendere. È vero che in Cina, ho capito, ma voi ve lo immaginate la delegazione della regione X italiana che va al ristorante in Cina in tre e che spende 10 o 13 euro? Io non me la immagino. Comunque un applauso al ministro al tesoro americano Jacob Liu. No, non li ha portati da McDonald's, li ha portati a mangiare ravioli, lo dico a chi scrive. E comunque, anche se li avessi portati da McDonald's, sono sempre soldi pubblici che non escono, abbiate pazienza. Qua ci sono le pizze al taglio, vogliono riconquistare voti? Beh, facciamo un po' di demagogia. Vogliono rubare voti al Movimento 5 Stelle, tutti con la pizza al taglio, no, la buvette. Vi ricordate quando raccontavamo la spigola in crosta a 3,50 euro? Vedo che il tecnico se la ricorda ancora, Altro che. Sì, anche i nostri spendono 17 euro, alla buvette del Senato, però. Perché sono tutti i contributi nostri. Vabbè, Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dategli un microfono, però, perché lo sento poco. Eccoci. Ci sono, eccomi qua. Con te, dopo il metro, la pubblicità, ci occupiamo da un lato di quello che è successo in Piemonte, dall'altro però anche alla luce della notizia più bella di oggi, cioè il governo che sblocca 20 miliardi per il 2013 e altri 20 miliardi per il 2014 come soldi che darà alle imprese che li vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Qui c'è il tema degli enti locali, perché spesso, lo spiego, questi soldi, queste opere, soprattutto se sono infrastrutturali, sono state fatte, ma non solo, per gli enti locali, per i comuni, per le province, per le regioni, non solo per lo Stato. Lo Stato ha un debito soprattutto sulla struttura sanitaria. ...17:38 minuti... Barisoni, ma cosa le ha promesso Grillo, la direzione del TG1? È un altro ascoltatore. Barisoni, basta, che palle con il suo moralismo e la demagogia. E un altro, lei è in quota PD, e un altro sta tirando la volata a Berlusconi. Beh, mi sembra che abbiamo coperto l'arco istituzionale. Bene, bene così. Evidentemente abbiamo pestato la coda a qualcuno, quella di paglia. Perché è demagogia dire che se il ministro del tesoro americano spende così poco, forse anche un ministro italiano, un politico italiano potrebbe farsi beccare e mangiare. Cioè, è demagogia raccontare le delegazioni delle varie regioni che sono andate in Cina in questi anni. Li abbiamo tutti i file in archivio, per cui. Ma per carità di patria, meglio che stia zitto, dai, oggi stiamo zitti. Allora, risorse per 12 miliardi e mezzo di euro sono bloccate nei bilanci dei comuni. Risorse che i comuni potrebbero utilizzare subito per pagare le imprese che hanno fornito loro servizi o beni, sono però bloccate dal cosiddetto patto di stabilità interno e quindi i sindaci hanno questi soldi ma non li possono toccare. Queste cifre le ha diffuse oggi l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale per i Comuni Italiani, e chiede al governo misure per sbloccare subito i soldi e rivedere anche il patto di stabilità interno. Sentiamo il sindaco di Bari Michele Emiliano, intervistato dalla nostra Monica Ceravolo, e poi sempre al microfono della nostra Monica Ceravolo anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che è l'unico sindaco in questo momento del Movimento 5 Stelle. Noi ci auguriamo che dopo anni di prese in giro da parte dei governi che via via si sono succeduti, finalmente si comprenda che questa regola molto complicata, è una specie di algoritmo matematico che viene applicato sia nei bilanci preventivi che nell'erogazione di cassa, sia allentato per consentire ai comuni virtuosi che hanno denaro in cassa di poterlo spendere, e devo dire anche alle regioni virtuose di poter spendere il denaro che hanno in cassa. Questo darebbe respiro all'economia, consentirebbe di pagare beni e servizi alle aziende che rischiano di fallire perché noi non paghiamo i nostri debiti. L'ANCI dice anche senza l'avallo di Bruxelles. Bruxelles ha precisato che il patto di stabilità, che è un trattato internazionale, non deve per forza essere applicato come l'Italia lo applica, cioè come un meccanismo di blocco degli investimenti e dei pagamenti dei debiti, ma deve essere applicato con intelligenza e può consentire allo Stato nazionale, membro dell'Unione Europea, di fare una propria politica economica interna. E quindi ci auguriamo che il Presidente del Consiglio, in particolare Monti, riesca almeno a fare questo atto di dignità e a fare questo decreto che ci autorizza al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Si è speso troppo, e però adesso i debiti vanno pagati. Non è possibile che pensiamo di essere in Europa per delle riforme che ci impongono giustamente di pagare a 30 giorni e poi abbiamo dei debiti pregressi che vanno oltre i 365 giorni. Quindi questo va cambiato, quindi prima si danno delle risorse per poter pagare i debiti, dopo si interviene sul patto di stabilità, lo si cambia e lo si rende veramente uno strumento che vada a premiare i comuni virtuosi. Deve essere il comune il primo a garantire la possibilità di pagare prima di iniziare le opere. Appunto, così il sindaco di Bari Michele Emiliano e il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Dopo, a mezzogiorno, una delegazione dell'ANCI, quindi dei sindaci italiani, si è spostata alla Camera dei Deputati per incontrare sia il presidente Laura Boldrini che il presidente del Senato Pietro Grasso, e i quali hanno dato la loro disponibilità a istituire una commissione speciale per esaminare la possibilità di arrivare a un decreto per lo sblocco del patto di stabilità per comuni ed enti locali. A questo punto poi il Parlamento dovrà inviare la proposta all'attenzione del governo, sì, ma quale? Soddisfatto comunque il presidente dell'ANCI, Graziano Del Rio, sempre al microfono della nostra Monica Ceravolo. Molto bene, abbiamo rilevato una straordinaria sensibilità dei due presidenti, una conoscenza dei problemi delle nostre comunità molto alta, e quindi questo ci fa davvero ben sperare. Entrambi hanno sottolineato la disponibilità addirittura a incardinare una commissione speciale che potesse esaminare il decreto che il governo deve mandare alle Camere, l'aggiornamento sulla nota del bilancio che deve mandare il governo alle Camere. Quindi siamo molto molto fiduciosi che dal Parlamento non arriverà nessun ostacolo, anzi arriva uno sprono al governo di fare presto e bene, e quindi credo che gli incontri di oggi sono stati molto proficui, una buona notizia per le imprese, per le famiglie che oggi sono state tutte insieme con noi al Capranica per sollecitare questo decreto. Adesso il governo speriamo che bruci le tappe. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera sono, pur nelle difficoltà grandi di questo momento di transizione, disponibili ad accelerare i tempi nel momento in cui il governo chieda loro un impegno, una votazione di qualsiasi tipo. E infatti, appunto, i senatori del PD Angelica Saggese, Rosa Maria Di Giorgi, Vincenzo Cuomo, Massimo Carrello e Pasquale Sollo hanno poi presentato questa mattina un disegno di legge che reca, appunto, che dovrebbe arrivare a sbloccare i fondi dei comuni virtuosi. Lo dico subito, del federalismo fiscale che è stato poi affossato, c'era un principio che ho sempre condiviso anche con, la, con quello che era lo spirito leghista in questo, Gianni Trovati mi guarda, però la spesa storica doveva lasciare il passo alla spesa standard, perché sennò continuiamo a punire i comuni virtuosi che spendono poco, siccome hanno speso poco e bene, no? Devono continuare a spendere poco e bene, e i comuni non virtuosi che hanno speso tanto e male hanno una spesa storica alta e potranno continuare a spendere tanto e male. Allora, Gianni Trovati, che possibilità ci sono che si sblocchino questi 12 miliardi e mezzo? Mentre vedo un ascoltatore che dice lei è chiaramente, come corrente politica del PSIUP, e vista l'età aggiungo anche del PDUP, Union Valdotene e Südtiroler Volkspartei. Gianni, vai. Allora sì, qui sui debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni c'è un doppio problema. Da un lato ci sono appunto questi, Lanci calcola 12 miliardi e mezzo di disponibilità di cassa annua, che potrebbero essere liberati da un semplice provvedimento che dica ai comuni pagate, nel senso che non c'è bisogno di risorse aggiuntive perché le risorse ci sono nelle casse dei comuni ma vengono bloccate dalle regole del patto di stabilità interno. C'è poi un secondo problema che sono i debiti degli altri livelli di governo, in primo luogo le regioni, le ASL, ma anche i ministeri, che invece hanno bisogno di una emissione ad hoc di debito pubblico per essere sostanzialmente coperte finanziariamente. Su questo secondo fronte c'è la notizia di oggi che citavi prima, che nella nota di variazione per quanto riguarda la gestione del bilancio ci sarebbero disponibili 40 miliardi per quest'anno, cioè l'impegno a coprire 40 miliardi di pagamento. Quindi sono due problemi diversi, perché nei comuni i soldi ci sono, ci già, sono già, ma, alcuni comuni, non in tutti. Sì, però in larga parte parliamo in questo caso di opere con stati di avanzamento lavori già chiusi, infatti. E che quindi attendono da mesi, mesi e mesi, perché sostanzialmente, detta in sintesi, il patto di stabilità dei comuni e delle province calcola come rilevanti ai fini dei tetti di spesa, sì, eccetera, non gli impegni ma i pagamenti, quindi ti blocca esattamente il pagamento dell'opera o della... Sì, hai ragione a ricordare che non sono opere ancora da farsi molte volte, sono opere... in ampio avanzamento o a metà dei lavori o manca semplicemente l'ultimo miglio, come si dice in gergo, tutto bloccato e i comuni hanno i soldi. Allora, io vorrei capire una cosa però, Gianni, sono due cose molto diverse, quello che ha deciso il governo sui debiti che ha lo Stato nei confronti della pubblica amministrazione e il fatto che i comuni possono sbloccare i soldi in cassa. Però, mentre per quello che riguarda il governo, il via libera è arrivato la settimana scorsa da Bruxelles, che ha detto, voi dovete ripagare, voi siccome pagherete questa impresa a cui dovete i soldi, noi non lo contabilizzeremo come se fosse deficit puro e duro, deficit to cure, perché non è un deficit vero e proprio, non è che tu stia spendendo di più del previsto, tu stai pagando servizi e opere che hai già ricevuto, per cui saremo flessibili su questo. E questo ha permesso poi politicamente di dire bene, andiamo a ripagare, perché quel 20 miliardi, un punto di PIL, sono circa 15 miliardi, vuol dire aumentare il deficit di un punto e mezzo circa di PIL, però non verrà calcolato dall'Europa come deficit in più. Cosa potrebbe invece portare a sbloccare i comuni? Beh, l'apertura europea ha creato sostanzialmente le condizioni anche per fare il provvedimento che serve a sbloccare l'arretrato dei comuni. Tanto è vero che gli stessi sindaci, ma Confindustria, Lance, tutti quanti, chiedono che sia proprio anche il governo Monti a fare subito un provvedimento di questo tipo che sblocchi l'arretrato, perché diciamo Bruxelles non è andata nel dettaglio delle spese, ha dato come dire un'apertura di tipo non solo politico ma anche contabile in base al principio diciamo elementare ma finora sepolto sottoterra che i debiti si pagano, e quindi il via libera deve essere immediato perché è molto urgente. Dopodiché, per quanto riguarda i comuni, bisognerà anche cambiare questo patto di stabilità, almeno nella forma in cui viene applicato oggi in Italia, perché altrimenti si crea subito un altro arretrato, perché questo arretrato che noi oggi dobbiamo sbloccare, dobbiamo liberare, dobbiamo gestire, non si è creato per sfortuna o per altre ragioni, ma si è creato in virtù di regole che sono ancora in vigore, per cui si crea un nuovo arretrato se noi non cambiamo le regole, molto semplice. Ecco, dopo il traffico vorrei sapere da Gianni Trovati i tempi, perché così come adesso abbiamo dei tempi, 20 miliardi entro 2013, altri 20 nel 2014, per le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, vorrei capire, vista l'iniziativa dei comuni, che quali potrebbero essere i tempi per sbloccare queste risorse. È inutile che mi scriviate, ma tanto sono solo una tantum. Ho capito, anche la vita è una tantum, se vogliamo vederla così, no? Però in questo momento di recessione, sbloccare 20 miliardi quest'anno più 20 l'anno prossimo e sbloccare 12 miliardi e mezzo di opere è un po' di ossigeno per queste imprese, anche perché il grosso del crollo e della disoccupazione si sta generando nel settore dell'edilizia, che è strettamente coinvolto in questi lavori pubblici. C'è chi scrive: ho scoperto per chi lei vota è un anarchico. Sì, guarda, adesso mi levo il cravattino nero. Addio Lugano Bella. ...17:50 minuti di nuovo in diretta. Allora, Gianni Trovati, per quello che riguarda i comuni, i 12 miliardi e mezzo, quando potrebbero sbloccarsi questi soldi? I tempi devono essere immediati. Lo stesso ministro dell'economia Grilli ha detto che lui non vede ostacoli, testualmente, all'adozione del provvedimento, ma serve, diciamo così, il via libera di Monti. C'è tutta Italia, dai sindaci agli imprenditori, i costruttori, bla bla bla, che dice a Monti: fai subito questo decreto. Ma poi, per rispondere al fatto, vabbè, ma tanto sono una tantum, appunto, questo è l'una tantum per l'arretrato, ma poi serve il secondo provvedimento, che è la modifica del patto di stabilità. Non entriamo nel tecnico, i sindaci chiedono sostanzialmente di adottare anche in Italia quella che è la regola europea, cioè l'obbligo del pareggio di bilancio con maggiore libertà negli investimenti, mentre la regola che è stata istituita in Italia 5 anni fa, è stato Viscola, continuata Tremonti, così distribuiamo, diciamo, le responsabilità a tutti quanti, ha avuto il sostanziale scopo e quindi il sostanziale effetto di caricare sulle spalle dei privati una quota crescente di debito pubblico. Eh sì, perché se tu non paghi quello che devi pagare, alla fine il cerino lo tiene il titolare del debito pubblico, non è più solo l'amministrazione pubblica, ma è l'impresa che aspetta di essere pagata. Allora, e su questo tu fai bene a ricordare quanto poi un conto è l'arretrato e un conto anche sono i pagamenti futuri. Già mi basterebbe vedere uno sblocco dell'arretrato, perché ha ragione l'ascoltatore che scrive: dopo 3 decreti che hanno portato in tutto a 3 milioni di euro, io finché non ci vedo non ci credo. Ha ragione, quello era un modo per cercare di svicolare, cioè il principio è che chi ha un debito paga. Qui invece con questi decreti si cercava di svicolare, si diceva chi ha un debito certifica, così poi il creditore lo usa in banca. Erano modi, diciamo, vie arzigogolate, ma la via più breve e più efficace è quella che porta dritto al punto. Allora, sentiamo invece sul tema, non dico più importante economicamente, perché sono 20 miliardi più altri 20, e più importante anche perché non riguarda solo i comuni, che cosa ha detto il ministro Grilli nell'annunciare appunto che il deficit del 2013, ecco, questo va riconosciuto a Monti, e cioè il nostro deficit nel 2013 sarà, grazie agli italiani, al 2,4% del PIL, più basso di quello francese, ma soprattutto sotto il 3%, con il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione lo Stato spenderà uno 0,5% aggiuntivo e quindi lo porterà al 2,9%, ancora sotto il 3%. E poi, ripeto, Bruxelles ha detto che questo 0,5% in più che facciamo di deficit non viene conteggiato come se fosse deficit vero, deficit cattivo. Grilli sulla necessità ora di creare spazi di pagamento e poi il decreto. Per arrivare al pagamento accelerato da parte delle pubbliche amministrazioni sono necessari 2 stadi. Il primo stadio, che è quello che oggi il Consiglio dei Ministri ha deciso, è quello di modificare gli obiettivi di finanza pubblica per creare gli spazi necessari per lo stadio 2, che è un decreto poi, decreto legge suppongo, ma un decreto che determini le forme, le modalità attraverso le quali questa accelerazione dei pagamenti avviene. Quindi in realtà è una relazione al Parlamento di modifica dei saldi, a cui il Parlamento dovrà, speriamo, dare parere positivo con un'apposita risoluzione in tempi, ovviamente è del Parlamento decidere, noi speriamo in tempi brevi, e non appena avremo questa risoluzione possiamo approvare immediatamente questo o un futuro governo il decreto che rende operativo immediatamente queste procedure. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Allora, questa era la buona notizia della giornata, notizia che tanto attendevamo, grazie a Gianni Trovati, che fa appunto, va in parallelo con quella che riguarda i comuni. Non confondiamo le due cose, abbiamo cercato di chiarirlo. Dopo il GR e la pubblicità c'è la borsa e poi ci colleghiamo con Cipro. Ha indovinato un ascoltatore, io voto il partito del Melone, benissimo. Minuti, torna Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni come sempre. Allora, giustamente molti ascoltatori ci hanno detto, ma Grasso e la Boldrini, quindi Presidente del Senato e il Presidente della Camera, di quanto taglieranno lo stipendio al di là delle percentuali? È appena uscita un'agenzia, il Presidente del Senato Pietro Grasso da 18.000 euro lordi a 9.000 euro netti, scusatemi, che sono cifre che... 18.000 euro netti a 9.000 euro netti e fate salve le indennità. Ora, uno potrà dire non è abbastanza quel che è, intanto è un segnale, abbiate pazienza, non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Non mi risulta che i presidenti del Senato precedenti e della Camera precedenti abbiano mai compiuto un'operazione del genere, nessuno. Allora, parliamo adesso della borsa e poi andiamo su Cipro, perché comunque novità, retromarce, campioni di tuffi, tripli tuffi, li vediamo anche oggi. Borsa, dicevo, negativa a Milano, ma meno peggio del resto d'Europa, meno 0,50% Milano, meno 1,43% Parigi, meno 0,90% Francoforte, meno 0,70% Londra, meno 0,35% l'America. La borsa come sempre la facciamo con Radio Cori, Sole 24 ore, allora borsa sì. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Dunque, Milano meno peggio delle altre, devo dire un calo più che accettabile, grazie ad alcune banche che anche oggi si sono mosse bene, e mi riferisco alla Popolare Emilia Romagna più 2,50%, UBI Banca più 2,30%, Banca Popolare di Milano più 1,60%, Banco Popolare più 1,20%. Devo dire positiva anche Intesa San Paolo, anche se meno, più 0,60%. Beh, mi sembra che qui la scommessa sia dopo la mossa della Popolare di Milano, si gioca sulle popolari? Sì, come era già avvenuto in passato quando era stato accennato per le prime volte alla trasformazione della Popolare di Milano in società per azioni, anche le altre banche popolari a ruota si erano mosse al rialzo. Quello che abbiamo visto oggi è esattamente la stessa cosa: la Popolare di Milano, dopo il più 11% di ieri, ha guadagnato un altro 1,63%, ma a questo punto il mercato si interroga un po' anche sulle mosse che gioco forte dovranno fare le altre banche popolari dopo questa prima mossa della BPM. Infatti Biper guadagna il 2,47%, UBI il 2,34%, il Banco Popolare l'1,19%, che sono tutte altre banche popolari quotate sul principale listino di Piazza Affari e che oggi si sono mosse al rialzo. E questo spiega anche la differenza di Milano, nel senso che cala meno rispetto alle altre borse europee, no? Soprattutto questo, il buon andamento del settore bancario che non si è registrato altrove, anche perché altrove hanno un maggior peso sui listini i titoli ciclici, che oggi sono andati piuttosto male, anche perché l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona è andato male questa mattina, aumentano quindi le incertezze sull'economia e sulla recessione in Europa, e questo ha spinto al ribasso un pochettino maggiore gli altri listini europei. Allora andiamo avanti con gli altri titoli invece. C'è chi ha chiuso in negativo, come sempre avviene. Il peggior titolo è Mediolanum, meno 3,80%. Oggi ha diffuso i conti, in realtà si era mosso bene nei giorni scorsi. Sì, nei giorni scorsi si era mosso bene in attesa di questi conti, nelle ultime due settimane aveva guadagnato quasi il 15%, i conti sono comunque positivi, perché mostrano una crescita dell'utile a 351 milioni, una crescita delle masse gestite nell'ordine del 12%, anche il dividendo che sarà di 0,18 euro, di cui 0,1 euro già pagato a novembre, sono tutti conti assolutamente positivi per Mediolanum, ma che proprio in virtù del fatto che era già cresciuta molto nelle settimane precedenti, oggi è stata vittima di alcune prese di beneficio. Andiamo su titoli non bancari, Parmalat. Dunque ieri la società ha diffuso i dati, c'è un po' di delusione sul dividendo, il titolo perde il 3,80%, cioè il dividendo è la parte degli utili che viene distribuito agli azionisti. Prego. Sì, perché sostanzialmente il dividendo proposto è di 3,9 centesimi contro i 5 centesimi proposti lo scorso anno, quando però Parmalat aveva distribuito anche una parte delle riserve. Quest'anno c'era un po' di attesa per capire come la società si sarebbe mossa, se avrebbe deciso di dare anche quest'anno di distribuire una parte delle riserve. Alla fine è stata scelta la politica più prudenziale, però ovviamente questo ha un pochettino deluso chi si era posizionato sul titolo in attesa di una maxi cedola. Ancora tra i titoli che non vanno bene, ST Microelectronics perde il 2,70%, Azimut il 2,60%, Fiat il 2,50%, Ferragamo il 2%, Tod's l'1,80%, Atlantia l'1,60%, Telecom l'1,5% di calo, come Ansaldo STS e Tenaris, Pirelli meno 1,30%, Unicredit meno 1%. Fronte opposto, oltre alle banche, bene anche Finmeccanica più 1,90%, A2A più 1,80%, e poi Lottomatica più 1%, Snam, Retegas più 0,70%. Ciccolella, uno dei titoli mitici durante la bolla della New Economy, non ce l'ho con Ciccolella, Poligrafica, San Faustino. Ciccolella fa fiori, fa vivaistica, lo dico. Più 13, perché lo so, ho imparato anch'io, più 13,90%. Sì, la società è riuscita quest'anno a ridurre la sua perdita di bilancio di 2/3, è passata dai meno 44 milioni, quindi da una perdita di 44 milioni nel 2011 a una perdita di 16 milioni quest'anno, e comunque è stato giudicato un segno positivo dal mercato e oggi il titolo è stato premiato con questo più 13,88%. Ancora tra chi si muove bene, abbiamo visto Prelios più 5,20%. Qui c'è un tentativo di chiudere un accordo con le banche sui debiti, no? Sì, è una trattativa che va avanti ormai da alcuni mesi per chiudere questo accordo con le banche e per ristrutturare sostanzialmente la società immobiliare, una ristrutturazione che dopo l'accordo con le banche passerà anche per un aumento di capitale da 185 milioni di euro, che prevede l'ingresso di nuovi soci nel gruppo immobiliare, fra cui Massimo Caputi, che è un manager con una lunga esperienza nel settore. Bene, anche il gruppo Class Editori più 10%, ci sono novità? Sì, hanno completato una piccola cessione che ha portato comunque nelle casse del gruppo 5 milioni di euro e oggi il titolo ha festeggiato. Infine, tra i peggiori, Telecom Telemedia meno 3,70%, Enertronica meno 20%, però attenzione che questo è un piccolo titolo, cosa fanno? Energie rinnovabili, no? Sì, fanno energie rinnovabili, si sono appena quotati sul mercato alternativo dei capitali lo scorso 15 marzo, si erano quotati a 3 euro, oggi ne valgono comunque 4,4. Hanno guadagnato moltissimo nei primi giorni, oggi insomma una battuta d'arresto che in qualche modo possiamo anche considerare fisiologica. Vabbè, con quello che hanno preso in 3 giorni, il 50%. Grazie Guido Marino, Radio Cori sulle 24 ore. Grazie a voi. Adesso, dopo il traffico, arriveremo all'ultimo tema, mi riferisco a Cipro, sia sul fronte europeo, non è colpa di nessuno, anzi colpa di nessuno, il titolo di un romanzo di Loduli, mi sembra. Colpa di nessuno, nessuno ha voluto il prelievo forzoso sui conti correnti, tutti gli europei adesso fra retromarcia, mentre a Cipro la borsa resterà chiusa fino a lunedì almeno, probabilmente fino a martedì, le banche fino a martedì, la Banca Centrale Europea assicura che c'è liquidità fino a lunedì, però lunghe code davanti allo sportello della seconda banca di Cipro, perché c'è un'ipotesi anche di fusione con la prima banca di Cipro. Comunque, 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alcuni di voi ci chiedono: ma perché tutta questa importanza a Cipro, per Cipro? Beh, sa, perché il déjà vu con la Grecia ci ha dimostrato che si legge Grecia, si chiama Grecia e poi si legge Spagna-Italia, cioè tutto l'attacco speculativo all'euro, a dei paesi dell'area euro incapaci di trovare una linea unica, nacque con la Grecia, no? Allora non vorremmo, no, che la parte greco-ortodossa di Cipro portasse gli stessi risultati, vista la botta di genio che hanno avuto i leader europei la scorsa settimana a Bruxelles. Prima di andare a Cipro, vediamo cosa hanno detto oggi i leader europei. Il mitico Jeroen Dijsselbloem: bisogna garantire, il presidente dell'Eurogruppo, cioè di quel gruppo dei presidenti del Consiglio, dei capi di governo dell'area euro, che ha deciso la scorsa settimana che per dare un prestito a Cipro, Cipro avrebbe dovuto fare un prelievo forzoso sui conti correnti per raggranellare almeno 6 miliardi, 5 miliardi e 800 milioni di euro. No, lo dico perché non è che tutti possono fare le demi-vierge, le mezze vergini qua. Allora, Jeroen Dijsselbloem: siamo pronti a discutere una nuova proposta. Bisogna garantire i piccoli depositi. La tassa è l'unica soluzione, il prelievo forzoso, ma deve essere più equa. La direttiva sulla garanzia per i depositi sotto 100.000 euro non è mai stata in dubbio. Questa tassa per Cipro è una misura una tantum, non ha niente a che vedere con lo schema europeo di garanzia sui depositi che si applica quando una banca è in crisi e fallisce. Cioè, come dire, la applichiamo solo a Cipro una tantum. E poi maggiori prestiti dalla Russia non risolverebbero il problema. It is now up to the Cypriot authorities to come forward with new proposals. Ora dipende dalle autorità cipriote avanzare nuove proposte con valide alternative. L'Eurogruppo è pronto ad assistere Cipro negli sforzi verso il percorso di riforme. Voglio essere chiaro e dire che l'Eurogruppo era ed è dell'idea che i piccoli depositi debbano essere trattati diversamente dai grandi. L'Eurogruppo ha pensato che fosse molto importante che ci fosse una giusta condivisione degli oneri e che la tassa sui depositi più grandi fosse maggiore rispetto a quella sui piccoli depositi. Guardando alle discussioni cominciate venerdì sera e sabato mattina, penso che avremmo dovuto spiegare meglio che la direttiva sulla garanzia per i depositi sotto i 100.000 euro non è mai stata in dubbio. Questa tassa per Cipro è una misura una tantum e non ha niente a che vedere con lo schema europeo di garanzia sui depositi che si applica quando una banca è in crisi e fallisce. Penso che Cipro ponga senza dubbio un rischio sistemico e purtroppo l'agitazione degli ultimi giorni lo dimostra. Infine, vorrei dire che più prestiti dalla Russia non sarebbero di aiuto, perché il problema è che Cipro aumenterebbe troppo il suo debito e ciò non aiuterebbe il paese ad andare verso un futuro nuovo. Ma quanto è bello l'inglese di Dijsselbloem, che è olandese, ed è l'unica cosa bella nelle sue dichiarazioni, perché prima ha difeso spada tratta, adesso dice: ma non volevo mica spaventare, è un caso solo su Cipro. Ma poi perché devono pagare i correntisti delle banche cipriote i problemi delle banche cipriote? Li pagassero gli azionisti a sto punto, o con prestiti, o li facessero pagare le banche, ma perché i correntisti? Questo io non capisco, perché poi la lezione che arriva è questa: se le banche fanno dei casini, i costi, i cocci sono dei correntisti, ma ci rendiamo conto? Vabbè, nel frattempo, mentre Medvedev dà lezioni a tutta l'Europa, dice: attenzione con quello che avete fatto, rischiate di creare il panico, è il presidente russo, anche sull'Italia, non ci avete informato, noi potevamo dare dei prestiti, a Cipro, avete fatto tutti gli errori possibili. Bello, prendere lezioni dalla democraticissima Russia su questo. Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, oggi ha incontrato Medvedev a Mosca e ha detto: guardate che neppure noi come governi europei eravamo informati di quello che stava per fare Cipro. Meglio mi sento, direbbe a Roma. Comunque sentiamo Barroso. I'm very concerned with the latest developments in Cyprus, namely because of the consequences. Sono molto preoccupato per gli ultimi sviluppi a Cipro, soprattutto per le conseguenze per i cittadini ciprioti. La Commissione europea è pronta a sostenere le condizioni per un accordo e infatti sono in corso incontri e consultazioni tra Cipro e i membri dell'Eurogruppo per trovare una soluzione alla crisi. In passato abbiamo risolto problemi più grandi e spero che anche questa volta possa essere trovata una soluzione. Sono anche consapevole degli interessi della Russia in questa vicenda e da diverso tempo sono in atto colloqui e incontri tra la Commissione europea e le autorità russe. Riguardo alla conclusione dell'ultima riunione dell'Eurogruppo, la Russia non è stata informata, anche perché non lo sono stati neppure i governi europei. Siamo completamente aperti e onesti su questa questione. L'Eurogruppo è finito nelle prime ore di sabato mattina e la decisione è stata il risultato di un compromesso tra i paesi dell'Eurogruppo. Ma oggi che sono qui a Mosca, sarò come sempre pronto ad ascoltare la preoccupazione dei nostri partner russi. E conviene che l'ascolti, anche perché la Russia ha minacciato di poter rivedere le sue riserve in euro. Mosca ha sostanzialmente tra il 40 e il 42% di riserve in euro. Se si mette a vendere euro, non è che in questo caso ci fa un regalo. Io vorrei però andare a Cipro, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Roberto, ci narrano le cronache di ciprioti che dicono è come essere tornati al Medioevo, non si riescono a fare bonifici, pagare il mutuo, fare operazioni di cambio e addirittura c'è chi dice torneremo al baratto, e edicolanti e commercianti che hanno problemi anche a dare il resto, perché noi non ci rendiamo conto, ma quando chiudono le banche non è proprio una cosa così facile, per quanto i bancomat continuino a funzionare. Il tuo racconto, Roberto. Sì, beh, innanzitutto vi segnalo che c'è una grossa dimostrazione davanti per dare... Ah sì, con scontri, abbiamo letto le agenzie, sì. Il Parlamento, perché con sa voce che chiudono, una voce del tutto priva di conferme, per ora la LAICI, ossia la Cyprus Popular Bank, che è una delle due banche, la seconda, che si era più esposta sui titoli greci. Quindi ci sono queste preoccupazioni. È l'indice di come i ciprioti cominciano ad essere veramente preoccupati. Sul contante per ora non c'è problema, anche se ai bancomat c'era qualche fila, però pensate, un paese che 10 giorni non può fare transazioni, come si vive? Si vive in modo con un senso di precarietà fortissimo. Ho parlato con dei fornitori che non possono ricevere le merci e vendere a loro volta perché non possono effettuare pagamenti elettronici, e comincia a avere un certo scontento proprio sia verso il governo ma verso anche l'Europa. Il sentimento antieuropeo sta crescendo. Strano. In Cipro, anche se ricordiamoci, un conto è le fasce sociali, possiamo definire meno abbienti, che sono reagiscono con impulso. Io oggi ho parlato con imprenditori, avvocati, sono spaventati dall'uscita dell'euro per evidenti motivi. Insomma, teniamo conto che la bilancia commerciale di Cipro è tutta a svantaggio di un'uscita dell'euro. Cipro nel 2012 ha importato 5,75 miliardi di euro e ha esportato 1,4. Vuol dire che in caso di uscita dall'euro si deprezzerebbe e le merci di base costerebbero tantissimo. Ecco, una cosa, c'è questa notizia di un piano B. Doveva riunirsi oggi appunto il Consiglio dei Ministri cipriota. C'è questo piano B e che cosa prevederebbe? Guarda Sebastiano, io lo chiamerei C, D, E, F, G o Z1 a 1 a 2, perché i piani si susseguono senza soluzione di continuità. È quasi difficile stargli dietro. Allora l'ultimo dei piani B, dei tanti, dei 16, B2. I piani B è un fondo di solidarietà. Che cosa vuol dire? Tutto niente, perché? Perché dovrebbe comprendere innanzitutto riserve auree dello Stato come garanzia, ma quante? diritto di sfruttamento del gas. Ieri io ho scritto un articolo sul gas cipriota, ma intenzione, le riserve non sono ancora commercializzabili. Cioè il governo vorrebbe addirittura fare un bond sulle rendite energetiche future di un gas che comunque non è ancora stato provato e non si sa ancora l'ammontare. Insomma, e infine le proprietà della Chiesa come asset. Ricordo che qua la Chiesa ortodossa è molto potente, ha asset bancari, ma soprattutto possiede il 70% delle terre del di Cipro. Infine la nazionalizzazione dei fondi pensione, ossia i fondi di pensione hanno accantonato dei soldi per pagare la pensione, lo Stato nazionalizza, se li prende un po' di soldi, però poi dovrà pagare le pensioni. Insomma, non è facile, non è una ricetta così brillante. Mi sa che ci risentiremo anche domani e poi bel weekend con le banche. Le banche sono sempre chiuse il weekend, il problema è che tendono a essere aperte durante, durante la settimana. Ascoltatori vogliono che dia lumi anche sul caso sloveno prima che scoppi. Ho capito, non è che adesso facciamo la trasmissione a 2 di novembre, ci basta Cipro per ora, abbiate pazienza. Sappiamo che ci sono tensioni anche sulle banche, sulle banche slovene, e in attesa che Bongioni si prepari a volare da Nicosia a Lubiana, io lo saluto, lo ringrazio e un auguro di buona serata la faccio a tutti gli ascoltatori. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.